Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Rapidissimo nelle informazioni, il nostro sito radio24.it. Potete scaricare tutto ciò che volete. Dialogare con me, se volete, sul mio blog Guardie o Ladri, lo trovate anche sull'home page del Sole. Ultima informazione, la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Da ieri, partendo da un caso, stiamo affrontando il tema delle vittime della strada. Siamo partiti da un caso di un radioascoltatore toscano, della provincia di Grosseto, che ha avuto alcune difficoltà a mettersi in contatto con chi gestisce il fondo di garanzia delle vittime della strada, che lì segnatamente è Fondiaria SAI, che però gestisce il fondo anche in altre 7 regioni. Fondiaria SAI ha effettivamente ammesso che ci sono state delle difficoltà, dei ritardi ora superati, ma abbiamo cominciato ad affrontare soprattutto il tema, vale a dire quello dei costi. Abbiamo scoperto che non è vero che non si sa a carico di chi è il costo del legale. Il costo del legale è a carico del fondo di garanzia, quindi in questo caso di Fondiaria SAI. È importante segnalare ovviamente il danno ricevuto, contattare tanto il fondo di garanzia quanto la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, vale a dire la Consop, che gestisce e è responsabile del servizio del fondo di vittime della strada. Abbiamo quindi cominciato a parlare di questo tema, oggi lo approfondiamo. Come? Beh, innanzitutto proprio con la Consap, vale a dire con la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, è una SPA, e noi abbiamo il responsabile del servizio fondo delle vittime della strada, l'avvocato Renzo Bassi. Buongiorno avvocato. Buongiorno dottore. E poi abbiamo ancora un approfondimento con chi purtroppo è stata vittima della strada, vale a dire Giuseppa Cassaniti Mastroieni, che è presidentessa dell'Associazione degli Italiani Vittime della Strada. Buongiorno Cassaniti Mastroieni. Buongiorno. Allora, io direi di partire da lei, avvocato Bassi. Vorrei cercare di capire, far capire ai miei ascoltatori, e io innanzitutto, come amo spesso ripetere, il giornalista deve essere e deve considerarsi come un ignorante, perché solo in questo modo può approfondire i temi che poi cerca di, come dire, di mettere a disposizione anche degli altri. Quindi vorrei capire, nel caso in cui effettivamente io sia vittima di un incidente stradale, soprattutto nel caso che spesso ahimè accade in cui non si identifica il conducente, chi ha danneggiato appunto la persona che ha subito il danno, come bisogna comportarsi? Per quanto riguarda la funzione e i compiti che la legge assegna alla Consap, diciamo così, basta ricordare l'articolo 283 e seguenti del codice delle assicurazioni, che è stato pubblicato e emanato con un decreto legislativo numero 209 del 2005. I casi di intervento della Consap, come dice, come recita l'articolo 283, sono vari, ecco, danni causati da veicolo non identificato, danni causati da veicolo non assicurato, danni causati da veicolo posto in liquidazione coatta amministrativa, danni causati da veicolo circolante senza l'autorizzazione del proprietario ed altri casi. Quindi una casistica molto ricca. Ecco, ma quanti casi affrontate? Cioè, io ieri mi chiedevo, e quindi lo domando a lei, se è una marea montante quella dei casi che voi affrontate, quanti sono, oppure se invece il numero di pratiche affrontate è stabile nel tempo? No, bisogna dire che ultimamente c'è stato un aumento abbastanza consistente dei casi in cui il fondo è stato, diciamo così, è intervenuto. E parliamo dell'ordine, ad esempio io qui ho davanti il numero degli indennizzi richiesti nel 2008, tutte le ipotesi, parliamo di 45.900 casi. Nel 2009 c'è un aumento di circa il 10%, perché parliamo di 50.400 casi. Quindi sono tantissimi. Sì, sono tantissimi, e bisogna dire che la maggior parte di questi casi sono delle prime due tipologie, cioè danno causato da veicolo non identificato e danno causato da veicolo non assicurato. Cioè praticamente, diciamo in altre parole, quei bastardi, mi passi il termine, che scappano dopo aver causato un danno, purtroppo aver ucciso una persona, e coloro i quali invece si permettono il lusso, in un'Italia in cui ci si può permettere di tutto, di guidare senza assicurazione. Allora, ecco, per essere più preciso, nel 2008 casi non identificati parliamo di 20.200, nel 2009 parliamo di 22.700. Ecco. Riguardo ai non assicurati, nel 2008 parliamo di 21.000 euro e nel 2009 di 23.700 casi. Benissimo, ecco, il costo qual è per lo Stato? Vale a dire, quanto ci costano a noi queste gradevoli persone che ammazzano, feriscono e scappano? Allora guardi, il fondo si alimenta dei contributi che ciascun assicurato per la polizza RC Auto versa, diciamo così, e questo oggi questo contributo è pari al 2,5%, quindi ciascuno di noi quando va a pagare la propria polizza per la responsabilità civile dell'auto sa che il 2,5% dell'importo va al certo, fondo vittime della strada. Certo, allora detto che... Parliamo perché ad esempio nel 2008 per quanto sì. riguarda i rimborsi totali, quindi gli indennizzi totali pagati dalla Consap, parliamo di 389 milioni di euro circa. Malissimo. Io dico sempre benissimo, invece poi spesso mi correggo e dico malissimo, perché 389 milioni che vengono pagati a causa di chi purtroppo si comporta in maniera sleale, scorretta, direi assolutamente vigliacca. Io pago volentieri la mia quota, sia ben chiaro Basti, lo dico a tutti, lo pago volentieri, mi piacerebbe però che le responsabilità fossero individuali. In Italia spesso per una marea di norme aggrovigliate che sembrano fatte apposta per premiare i delinquenti, in Italia spesso purtroppo questo non accade, la responsabilità non è quasi mai soggettiva. Cassaniti Mastroianni, lei ha perso una figlia, quindi parliamo di una persona che continua a soffrire ogni giorno della sua vita. Io non vorrei parlare di questo però perché il suo lutto è nel suo cuore e nel cuore di tutte le persone che hanno un minimo di sensibilità, quindi sicuramente mia e dei radioascoltatori. Le vorrei chiedere invece che cosa c'è che non va in questo benedetto codice della strada, che cosa rende spesso impunito chi commette un'azione del genere? Guardi, io normalmente dico che sono i magistrati che non applicano con rigore le norme, quindi sottovalutano il danno e il reato. E questo, in questo anche poi le assicurazioni sottovalutano il danno. Quindi bisogna assumere maggiore coscienza sulla gravità della strage e della gravità della perdita, perché perdere una vita significa privare la famiglia di una realtà che era essenziale alla famiglia. Certo, certo. E quindi non ci si può permettere di sottovalutare questa perdita. Quanti sono gli italiani vittime della strada che lei raccoglie? Ma guardi, noi abbiamo 116 sedi in Italia, quindi ogni sede ha degli iscritti, sono moltissime le persone, anche se non tutte si iscrivono all'associazione, perché l'associazione è propositiva per un cambiamento e quindi certo. Le persone che sono vittime di questa grave patologia personale e sociale, insomma, certo. che incombe proprio sui familiari delle vittime, non tutti sono disposti a dire faccio sì che questo sacrificio determina un cambiamento, perché purtroppo come riscontro le persone hanno il pessimo modo di agire delle istituzioni, proprio che sottovalutano il danno della persona, quindi creano ulteriore sofferenza. Certo, lei giustamente invita tutti a riflettere, perché quando sì, si è colpiti sì. in prima persona sì. è facile poi aderire anche o comunque sentirsi vittime, giustamente, come è giusto che ci si senta. Ci vorrebbe una maggiore coscienza civica e sociale. Il problema è questo, ci vuole maggiore coscienza, cioè noi ci dobbiamo rendere conto che sono i cittadini che possiedono i problemi e che le istituzioni hanno il potere di trattare questi problemi e quindi noi li dobbiamo rappresentare, quindi ci vuole questa consapevolezza di cittadinanza attiva e nello stesso tempo di mettere a frutto della società, a frutto della civiltà, a frutto della vita il sacrificio di una vita, giusto. Il sacrificio della salute, perché sono delle cose gravissime, non sopportabili da una società che si chiama civile, perché una società che agisce come la nostra è una società barbara, non è una società civile. E allora l'appello che noi facciamo è che veramente si agisca tenendo conto della dimensione umana del problema. Certamente. Invece è l'aspetto burocratico, cavilloso, di sottovalutazione del danno di una persona, perché anche le stesse tabelle che indicano i punti di danno sottovalutano la gravità del danno. Ecco, ora io non entrerei nello specifico, perché ovviamente questo è motivo poi di dialogo. Ben venga quello che voi avete avete avviato. Dico ai miei radioascoltatori, torneremo ancora sul tema sicuramente grazie ai nostri ospiti, a quelli che abbiamo avuto in tutte e due le puntate, in regia Fabio Cantodori, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.